Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Stefano Marzadro, distillare la grappa da 60 anni per far vivere la tradizione di famiglia. Di Anna Marino. Sono nato sopra una distilleria e ci sto ancora vivendo sopra, quindi è un rapporto fin dall'inizio, fin da piccolo, fin da bambino, e che sentivo i profumi e gli alcoli che venivano su nella nostra casa. E la grappa era sicuramente un prodotto era un alimento negli anni 60, negli anni 70, c'era un grande consumo di grappa, ma perché la gente faceva anche dei lavori pesanti e riusciva anche a smaltirla. Oggi invece è diventata una cosa bellissima, una cosa che piace anche alle signore, che piace anche alle ragazze, e è un momento di convivio, un momento da stare intorno in tavola in compagnia. Stefano Marzadro, presidente dell'omonima azienda, è nato il 4 gennaio 1955 a Brancolino di Nogaredo, un piccolo paese in Trentino di 300 abitanti con due distillerie. Appartiene alla seconda generazione della famiglia della famosa Grappa Marzadro. Terzo di sei figli, è nato nella casa sopra la distilleria e ha sempre respirato il profumo della vinaccia e del suo prodotto. Ancora oggi abita nella stessa casa. Ecco come Stefano Marzadro ricorda gli albori. La nostra azienda è nata nel 1949. Fare grappa in Trentino si dice slambicare, vivere vita proprio da povera gente. Quindi hanno iniziato sto lavoro perché non avevano altro modo di sussistenza. Ha iniziato mio papà, ma soprattutto la zia, che ha portato tutto la voglia di fare questa nuova attività, iniziando piano piano con tanto impegno. Erano anni sicuramente molto difficili, erano anni che di distillerie ce n'erano tante. Pensiamo che ancora oggi in Trentino si produce il 2% del vino italiano e si produce il 10% della grappa, quindi la grappa per noi trentini è un po' una cosa che ce l'abbiamo nelle vene, più che il sangue abbiamo della grappa, no? E abbiamo 30 distillerie, tutte belle aziende piccole a livello familiare che fanno della gran qualità. Stefano Marzadro, all'età di 15 anni, aiutava la zia a preparare i liquori e a 17 anni era dipendente della ditta. È stata, zia Sabina, una donna e una figura fondamentale per l'azienda, che insieme ad Attilio Marzadro, classe 1921, ha dato inizio all'avventura imprenditoriale. Nel 49 Attilio Marzadro inizia infatti la propria produzione di grappa con un piccolo alambicco posto in cantina. Allora avevano avuto problemi come famiglia durante la guerra, era morto un fratello, era morto il papà il fratello e il papà di mio papà, era morto per malattia venuto dalla guerra. La zia è dovuta andare a lavorare in una casa di signori a Roma, è rimasta giù diversi anni. E poi è rientrata con questa idea, chiedendo ai parenti di qui, di lì, se poteva fare sto lavoro. Qualcuno voleva anche mettersi in società, però lei non ne ha voluto. Ha detto no, questo lavoro devo farlo da sola, devo farlo con mio fratello Attilio, che è mio papà, no? E ha iniziato piano piano questo lavoro e io avrò avuto 10-12 anni, e ricordo che si andava giù nel cortile e c'era questa zia che lavava le bottiglie, che distillava lei personalmente. Rimaneva in piedi anche la notte insieme a una persona che la aiutava a distillare, no? Non le so dire se sia un fatto eccezionale. Certo che la donna da noi in Trentino comunque è sempre stata la regina della casa e quella che ha sempre portato avanti tutti i lavori, no? E anche la distillazione, che era una cosa tipica per noi trentini, probabilmente era anche seguita un po' dalla donna. Certo che lei non l'ha fatto così a livello familiare, ma piano piano l'ha fatta a livello imprenditoriale. Io ho sempre detto, mi sembra una farmacista la mia zia, no? Tanto era precisa, scriveva tutto, la pulizia, la mania della pulizia, io la ricordo sempre, sempre, sempre, sempre. Mio papà ha 12 anni in meno della zia, la zia è scomparsa da ormai una decina d'anni, no? Il papà invece ha 89 anni, ancora vivo, pieno di salute, sempre in distilleria tutti i giorni. Hanno iniziato assieme, il papà ha sempre seguito più che altro il lavoro della commercializzazione, andando in giro per le nostre valli a vendere la grappa. L'ingresso da giovanissimo in azienda per Stefano Marzadro ha voluto dire fare propria un'esperienza a 360 gradi nel settore, dalla conoscenza e conservazione della vinaccia alla distillazione e all'imbottigliamento, fino ad arrivare al momento della commercializzazione. In questo modo ha avuto la fortuna di poter vivere tutti i vari passaggi inerenti al prodotto. Io ricordo già a 17 anni ero in azienda, mio papà ero dipendente della sua ditta, ricordo tutti questi carri che venivano o trainati dai buoi, dai cavalli o dai primi trattori, insomma, a portare la vinaccia all'autunno. La grappa si faceva come si fa oggi, utilizzando la vinaccia con piccoli alambicchi. Una volta erano un po' diversi, ma il procedimento è uguale, identico. Anche oggi lavoriamo con gli stessi alambicchi di una volta. Lavoriamo con un alambicco che si chiama sistema Tullio Zadra, che è un sistema nostro tipico trentino. Quasi tutte le distillerie lavorano con gli stessi tipi di impianti. Perché anche grazie all'Istituto Agrario di San Michele e l'Istituto della grappa si continua a studiare, si continua a perfezionare questi alambicchi. Però tutti lavoriamo con gli stessi impianti. Stefano Marzadro racconta come nasce l'idea di fare la grappa, che ha un grande merito, di utilizzare la vinaccia che potrebbe essere gettata via e invece si trasforma in una bevanda che dura nel tempo. L'idea è nata ancora quando eravamo sotto l'impero austro-ungarico, sia noi trentini che i friulani, che abbiamo due gusti di grappa abbastanza vicine, perché eravamo zona di produzione di vino che dopo veniva portato alla corte di Vienna, e al contadino rimanevano gli scarti e di quelli ne doveva far la virtù, e da lì è nata la tradizione di distillare, di fare la grappa. Stefano Marzadro ha fatto il servizio militare nel gruppo degli Alpini, ma in caserma è stato soltanto 3 mesi. E poi racconta di essersi imboscato per poter essere a casa a lavorare non per soldi o per bisogno della famiglia, ma solo per passione. Un anno dopo, finito il militare, era già sposato. Dopo un anno è nato Mattia, il primo dei 4 figli, che oggi ha 31 anni e lavora in azienda. Ecco come racconta i passaggi generazionali della sua famiglia, a partire dal suo. Primo passaggio generazionale, diciamo, quando sono entrato io, quando è entrata, dopo piano piano è entrato un altro fratello, Andrea, dopo Anna, è stato un passaggio molto, molto soft, molto delicato. Io devo dire che mio papà è stato molto bravo nel permettere di lasciarci fare, lasciarci creare qualcosa di nuovo, e stando sempre dietro le spalle, guardando con attenzione, però lasciandoci fare. Da quel lato lì credo che sia il pregio più importante che posso dire di mio papà. E per i passaggi generazionali in genere, Stefano Marzadro spiega se c'è una ricetta, come per la grappa. Vorrei poter fare quello che ha fatto mio papà. Stanno entrando dei miei figli, ma entreranno anche degli altri, dei cugini dei miei figli. Quindi sarà un po' da vedere, anche perché non è più come una volta così facile, così scontato. Oggi bisogna programmarla in qualche modo, ma credo che ci siano le consulenze e le professionalità per poter fare questo tipo di avvicendamento. Dagli anni 80 in poi si è dedicato di più alla commercializzazione e notorietà del marchio per rilanciare il prodotto. La politica di Stefano Marzadro non è mai stata quella dei grandi numeri, ma quella di presentare e raccontare il prodotto con la sola convinzione della qualità e della passione che c'è dentro. In questo momento, parlo degli anni 80, la grappa ha avuto sicuramente degli anni di crisi di consumi, crisi per colpa anche forse della qualità della grappa, la grappa un po' vecchia. E quindi ci si è dovuti inventare qualcosa. In quegli anni stava iniziando anche il turismo in Trentino, arrivava il turista da un po' da tutte le parti dell'Italia e cercava qualcosa come prodotto tipico, e cercava, non so, la grappa al mirtillo, ad esempio, che in tutte le case si faceva con la grappa, con l'infusione dei mirtilli che si raccoglievano in settembre, ottobre sulle nostre montagne, si mettevano in infusione con un po' di zucchero e si faceva questo liquore al mirtillo. Questo prodotto è stato portato a livello di azienda, e lì è stata la partenza di tutta una serie di prodotti alla frutta che sono durati per almeno 15-20 anni su tutto il mercato. Aromi e sapori sono raccolti da tutta la famiglia, da sempre, ciascuno con le sue mani. Li stiamo raccogliendo anche oggi personalmente. E come dicevo, mio papà ha 89 anni, se sa che andiamo a raccogliere le erbe e non lo chiamiamo, si arrabbia anche, perché secondo lui gli altri non sono capaci di raccoglierle, solo lui è in grado di farlo. Andiamo a raccogliere la rutta che si raccoglie a giugno, andiamo a raccogliere la sperula, che è un'erbetta bellissima che che nasce a 1800 metri sotto i pini, anche quella verso fine giugno, il ginepro, il mugo, la genziana, che è una radice, il miglior componente di qualsiasi amaro, la genziana, no? Si raccoglie tutto questo, viene raccolto con i permessi che ci dà la provincia, e la genziana bisogna andare col piccone, perché è una radice che nasce, che è sottoterra logicamente, in mezzo, soprattutto in mezzo a poca terra e tanti sassi, anche molto faticosa da raccogliere, che però fa delle radici che sono bellissime, che sono dei capolavori, delle opere d'arte da vedere. Tradizione rispettata rigorosamente, perché ancora oggi, come all'epoca del signor Attilio, la distillazione della vinaccia avviene con il tipico metodo trentino a bagnomaria. I profumi e l'aroma della grappa vengono così valorizzati recuperando tutti i sapori che la produzione vinicola del territorio sa offrire. Ma c'è un altro segreto. La vinaccia, materia prima indispensabile per ottenere la grappa, deve essere distillata in tempi brevi. La freschezza, infatti, diventa uno degli elementi che fa la differenza. Stefano Marzadro spiega qual è il momento della grappa. Il periodo migliore logicamente è quello della produzione, il più bello, dove la distilleria veramente respiri la grappa in tutta la distilleria. La grappa si distilla da settembre a dicembre, circa 100 giorni di lavorazione, da quando arriva la vinaccia finché dopo si finisce, si lavora giorno e notte, 24 su 24, no? E quello è un periodo bellissimo, si è sempre in distilleria, perché o con la scusa di assaggiare, o con la scusa di guardare, o con la scusa di fare qualcosa, fa parte della nostra vita. C'è un perché anche dietro le 18 lune, grappe invecchiate in piccole botti di rovere, acacia, ciliegio e frassino, che per 18 mesi riposa nei sotterranei della distilleria, e solo dopo un'attenta valutazione da parte del mastro distillatore e con l'approvazione dei componenti della famiglia Marzadro viene posta sul mercato. Ecco le sue regole. 18 lune è nato da un concetto molto semplice, dal periodo di invecchiamento di questa grappa, che sono minimo 18 mesi, che per poterla chiamare stravecchia in etichetta, per legge deve stare minimo 18 mesi nei magazzini delle dogane. Per quanto riguarda il bilanciamento tra vita e lavoro, invece, secondo Stefano Marzadro non esistono ricette e regole valide per tutti, ma ci si aiuta anche in famiglia. Non sono la persona più giusta da dare suggerimenti in questo campo, perché spesso e volentieri mi lego troppo al lavoro, mi impegno troppo, mi prendo troppi impegni, quindi lascio poco tempo alla mia persona e ai miei svaghi. Io ho 4 figli, però noi eravamo in 6 fratelli, quindi saremo una decina di nipoti, siamo una famiglia numerosa. 60 anni per una distilleria artigianale è già un lasso di tempo record. Stefano Marzadro oggi spiega come l'antica cantina è diventata un'azienda anche internazionale. La distilleria nei 60 anni è cambiata moltissimo, no? Perché tutti, non dico tutti gli anni, ma ogni 2-3 anni si facevano piccole rivoluzioni. Poi ci siamo anche divisi dalla vecchia distilleria in paese, abbiamo fatto un imbottigliamento fuori. Adesso, dagli ultimi 5 anni, abbiamo fatto una bellissima operazione, abbiamo messo tutto assieme lì a Brancolino, a 500 metri dall'uscita nord di Rovereto, abbiamo fatto un bellissimo stabilimento dove abbiamo sia la distilleria che l'imbottigliamento, che l'invecchiamento. Il Trentino rimane nel cuore, ma certo che siamo anche noi popoli del mondo e ci adeguiamo e ci viviamo molto molto bene. Tra i momenti difficili, la crisi economica. L'impatto sul settore è stato limitato, ma si è sentito, anche se ci sono state compensazioni. Che sia finita o no non lo sappiamo, comunque anche il 2010 non sarà un anno abbastanza impegnativo e abbastanza difficile. Non è stata una crisi terribile, anche perché il consumo della grappa in certe zone dell'Italia sta diventando di moda, vediamo il centro e il sud Italia, di conseguenza abbiamo dei consumi nuovi che ci hanno fatto recuperare le perdite che abbiamo al nord. Il ruolo del dialetto in Trentino e in famiglia. per Stefano Marzadro è quotidiano. Sì, sì, parliamo in dialetto sempre, quando è possibile lo parliamo sempre. Io ho una bambina di 10 anni che parla quasi esclusivamente l'italiano, ma da un lato mi dispiace, io le parlo sempre in dialetto perché voglio che se lo ricordi, che lo impari, perché credo che sia una cosa importante. Da alimento a elemento di convivialità, per il consumo della grappa e per quello delle altre bevande alcoliche, Stefano Marzadro manda a tutti un messaggio. Non dobbiamo condannare né il consumo della grappa né condannare chi fa i controlli che si fanno oggi, però la gente si deve abituare a un modo di consumo un po' diverso. Non è giusto che leggiamo sui giornali il lunedì e il martedì tutte quelle stragi che ci sono di giovani. Io su questo sono fermamente sicuro. Possiamo bere la grappa, possiamo bere il vino, però possiamo berlo anche in modo giusto, e soprattutto chi guida non deve bere, o se beve deve bere poco. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.